in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei internazionale, chiamiamola così. Oggi inevitabilmente partiamo dai siti britannici, perché naturalmente, come sapete, come avete sentito anche dal GR, che la Gran Bretagna abbia adesso un hung parliament, cioè un parlamento appeso, è una cosa abbastanza sicura. Theresa May ha indetto le elezioni con 20 punti di vantaggio sul capo dei laburisti, James Corbyn, e poi però è finita con averne una manciata di questi punti. Da qui la questione del hung parliament. Quanto però esattamente, quanti seggi esattamente avranno i conservatori e quanti i laburisti, non è ancora sicurissimo. Allora vi leggo per esempio il titolo di Financial Times di 10 minuti fa: May clings to power as Tories threaten Brexit split. Cioè la May si aggrappa al potere. Sappiamo che appunto molti pensavano che avrebbe forse potuto fare come aveva fatto Cameron esattamente un anno fa. Il 23 giugno del 2016 ci fu il referendum per la Brexit. Cameron pensava di vincerlo e invece, come sappiamo, vinsero anche se di misura i britannici, che dissero di essere favorevoli alla Brexit. Cameron si dimise, prese il suo posto Theresa May, che fino a quel momento era stata ministro dell'interno. Molti pensavano che forse avrebbe potuto fare lei stessa una scelta simile. In realtà no, come dice Financial Times, si è aggrappata al potere. E secondo Financial Times, a questo punto però, all'interno dei conservatori potrebbe consumarsi una battaglia appunto fratricida, cosa che noi in Italia conosciamo molto bene, quello che è successo, sappiamo, all'interno del PD proprio pochi giorni fa durante il voto per la riforma elettorale. I conservatori potrebbero spaccarsi sulla Brexit. Il Telegraph titola: Theresa May fighting to stay in number 10 as senior Tories ponder leadership challenge. Quindi anche in questo caso, e tra l'altro preciso che Financial Times è il quotidiano finanziario britannico, quindi assolutamente liberale e liberista. Il Telegraph è abbastanza neutrale, diciamo, ma il titolo è molto simile. Theresa May lotta per rimanere al numero 10, naturalmente un sinonimo di Downing Street, che è la residenza del primo ministro britannico, i senior Tories, cioè i conservatori, i rappresentanti più senior, non necessariamente anziani, ma che hanno più anni alle spalle nel partito dei conservatori o in Parlamento, stanno pensando di sfidare la sua leadership. Il Guardian, che invece è un quotidiano britannico autorevolissimo, è tra l'altro il sito in inglese più letto al mondo, anche perché è completamente gratuito. Il Guardian titola: Chasten Theresa May to name her team. Quindi la Theresa May, che è in difficoltà, che è stata sfidata dagli elettori, se vogliamo, adesso deve mettere insieme una squadra di governo. Ci sarà un rimpasto, anche qui scenari che in Italia conosciamo bene. Ci sarà probabilmente un rimpasto, resa dei conti interna, quindi non solo al partito ma anche al governo, e nelle prossime ore cercheremo, naturalmente su Radio 24 avrete tutti gli aggiornamenti, cercheremo di capire che forma avrà, quanto diverso sarà il nuovo governo. Un'ultima segnalazione dal New York Times, che essendo da sempre gli Stati Uniti il più stretto alleato, non fosse che per ragioni culturali e linguistiche, potremmo anche dire del Regno Unito, in realtà non ha come titolo principale quello delle elezioni appunto nel Regno Unito, titola invece su tutta la questione della testimonianza dell'ex numero uno dell'FBI Corney e delle reazioni di Trump, che adesso si dice a sua volta disposto a testimoniare. C'è un titolo, diciamo a metà pagina dell'home page del sito del New York Times, che è: UK election manages to make Brexit even harder. Cioè le elezioni riescono a rendere la Brexit ancora più difficile, perché naturalmente sappiamo che dietro a tutto questo ci sono le negoziazioni della Brexit. La stessa Theresa May, quando circa un mese fa indisse queste elezioni anticipate, disse chiaramente che era per avere un mandato ancora più forte per negoziare meglio le condizioni della Brexit. A proposito di elezioni, vi segnalo anche questa di un quarto d'ora fa, la home page di El País sul il quotidiano spagnolo, il principale quotidiano spagnolo, pensavo, così forse scioccamente, che il titolo principale fosse dedicato alla notizia che il 1 ottobre potrebbe esserci un referendum sulla Catalogna exit, potremmo dire, cioè sull'uscita della Catalogna, che è da sempre una regione della Spagna con forti spinte indipendentiste, un referendum appunto che tra l'altro è stato dichiarato anticostituzionale, ma è stato indetto comunque, per chiedere agli abitanti della Catalogna se vogliono o no rimanere parte della Spagna. Questa notizia c'è, ma non è quella principale. Invece si parla di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e poi c'è una bella fotonotizia di Rafa Nadal, che, come forse gli appassionati di tennis sanno, giocherà la sua decima finale del Roland Garros, perché ha vinto ieri contro Thiem, e quindi giocherà questa finale contro Wawrinka. Passiamo ad altri argomenti, e tra l'altro anche comunque ringrazio gli ascoltatori che così presto al mattino stanno già mandando messaggi al 349-238-6666. Se poi volete c'è anche il mio account Twitter, che è Giulia_Crivelli. Ma vediamo appunto altre notizie, perché questa settimana, in generale in questi giorni, sono stati tantissimi temi di politica estera, a cominciare naturalmente dagli eventi in Medio Oriente. Sapete che lunedì mattina ci siamo tutti svegliati con la notizia che molti paesi arabi, tra i quali l'Arabia Saudita, avevano deciso di isolare diplomaticamente, e non solo, il Qatar. Allora, a questo proposito vi segnalo, ci sono tantissimi articoli, ma in particolare da Internazionale di questa settimana, che è in edicola da ieri e la cui copertina tra l'altro è dedicata, per tornare alle questioni legate alle decisioni di Donald Trump e della nuova ormai neanche poi tanto, sono 6 mesi che Donald Trump è presidente degli Stati Uniti, quindi legate alle sue decisioni sul clima, sulla politica che gli Stati Uniti hanno deciso di avere sui trattati internazionali, in particolare su quello che era stato siglato a Parigi. La copertina di Internazionale: la Groenlandia si scioglie ed è un problema per tutti, e all'interno trovate questo lungo reportage del New Yorker appunto sulle conseguenze del riscaldamento globale che sta facendo sciogliere i ghiacciai in Groenlandia, che ne dicano coloro che non credono alle teorie del riscaldamento globale, che sono comunque, ricordiamolo, esistono, questi scienziati cercano di dimostrare scientificamente le loro teorie, ma sono una minoranza all'interno della comunità scientifica. Ma dicevamo del Qatar, da Mediapart, il sito francese. Vi segnalo questo articolo, che appunto poi trovate su Internazionale di questa settimana, che si intitola "Perché l'Arabia Saudita vuole isolare il Qatar". Riyadh, cioè la capitale dell'Arabia Saudita, accusa Doha, capitale del Qatar, di sostenere il terrorismo e di mantenere relazioni con l'Iran, rivale dei sauditi. Ha convinto altri paesi a rompere i rapporti con il governo qatariota. Vi leggo l'ultimissima parte, ma è veramente un articolo interessante, anche se questa questione appunto medio orientale sappiamo che è complicatissima. C'è da chiedersi se nel tentativo di isolare l'Iran e il Qatar, che merita di essere sanzionato, la nuova amministrazione statunitense e i leader sauditi siano stati veramente attenti ai loro interessi. È strano indicare l'Iran come promotore del terrorismo internazionale e fidarsi dell'Arabia Saudita, la patria di Osama Bin Laden, non lo ricorderemo mai abbastanza, aggiungo io, e dei terroristi dell'11 settembre, la cui dottrina religiosa ha rappresentato il terreno di coltura del jihadismo. E se è incontestabile che in Siria l'Iran ha svolto un ruolo decisivo a sostegno della dittatura di Bashar al-Assad, è altrettanto evidente che in Iraq le milizie sciite filo-iraniane stanno contribuendo, con metodi contestabili, al successo della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro lo Stato Islamico, l'ISIS. Bene, a proposito di clima, e per far capire che non è assolutamente una disputa tra Stati Uniti e Europa, il quotidiano The Hindu, indiano, ha pubblicato questo editoriale, anche in questo caso lo trovate su Internazionale di questa settimana. Il titolo è "Salvare il clima senza Trump". Ritirandosi dall'accordo di Parigi sul clima, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assunto una posizione retrograda su una delle questioni più urgenti per l'umanità. Oltre a ignorare le prove scientifiche, la sua mossa va contro la logica dell'economia, visto che le più importanti aziende statunitensi, come la General Electric, la Apple e la Tesla, sono tutte convinte che l'innovazione ecologica offra maggiori prospettive di crescita e occupazione rispetto ai combustibili fossili. E vi leggo l'ultima parte: bisogna evitare che la decisione degli Stati Uniti modifichi l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura del pianeta inferiore a 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali, che era tra gli obiettivi dichiarati dall'accordo di Parigi. Inoltre deve essere rafforzato il principio di responsabilità comuni ma differenziate adottato dalle Nazioni Unite, in base al quale un impegno maggiore spetta ai paesi industrializzati storicamente responsabili dell'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. E a proposito ancora di altre notizie, vi segnalo, anche non necessariamente uscite ieri, ma come sempre facciamo guardando quello che è uscito in questa settimana sui quotidiani, soprattutto europei, ma non solo, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco, c'è un articolo sulle elezioni, le nostre possibili, che adesso paiono in realtà meno possibili, elezioni anticipate, e questo articolo si occupa in particolare dell'atteggiamento di Matteo Renzi. Scrive la Faz: le elezioni anticipate per le quali spinge Matteo Renzi rischiano di far precipitare l'Italia in una crisi seria. Il paese potrebbe restare senza legge di bilancio, senza risanamento e privo di un governo in grado di agire. Il commento, appunto, di questo, il titolo di questo commento della Frankfurter Allgemeine Zeitung è Italia in crisi, e si legge ancora: l'Italia rischia turbolenze nel 2018 su due fronti. Dal prossimo anno la BCE potrebbe ritirare il programma di acquisto dei titoli, sapete, il cosiddetto quantitative easing, e così gli interessi per i debiti non sarebbero più vicini allo zero. Questa sarebbe per l'Italia una bella prova, perché gli anni con i debiti dai tassi a zero non sono stati usati per l'abbattimento del debito che noi sappiamo essere al 133% del nostro PIL. Vi segnalo da Le Monde, a proposito di inquinamento e di come naturalmente non l'Italia, in particolare le nostre città più grandi, non sono le sole in Europa ad avere spesso dei problemi gravissimi di inquinamento dell'aria. Le Monde segnala il caso di un insegnante di yoga di 56 anni che ha deciso di fare causa allo Stato perché avrebbe fallito nel proteggere la sua salute dagli effetti dell'inquinamento dell'aria. La causa intentata da questa donna per questa la dicitura ufficiale carenza dolosa potrebbe non essere la prima, perché ci sono molte, questa signora risiede a Parigi, ma ci sono tante altre persone di Parigi e non solo, che secondo alcune perizie mediche possono legare i loro problemi di salute, in particolare respiratori, all'inquinamento. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Io vi do appuntamento a domani verso le 7:15, anche a Marina, che dice però che è difficile ascoltarmi. Quindi Marina, se vuole, domani alle 7:15 con i quotidiani italiani, se no non importa. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno sentito. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.